io sono Enrico Pasquale Prodico, ho 23 anni e sono a Motta San Giovanni e sono qua. La Madonna Dolovito, e mette la fumara, e mette lo cannito, e cala la fumara. La Madonna Dolovito, e mette la fumara, e mette lo cannito, e cala la fumara. La Madonna Dolovito, e mette la fumara, e mette lo cannito, e cala la fumara. La Madonna Dolovito, e mette la fumara, e mette lo cannito, e cala la fumara. Io lo pilo e lo pilo ai voi, e notte mi sonnai pilo pilo e ne voi. Ugunigia lo pilo e lo pilo ai voi, e notte mi sonnai pilo pilo e ne voi. It's 105 Zoo, only for you.